E allora alle 10.02 abbiamo in onda un compagno di Brescia che ci può un po' descrivere qual è la situazione in questi momenti, cosa sta succedendo. Ecco, sei in onda, se ci vuoi un po' raccontare come stanno i compagni che stanno sulle gru, i compagni che stanno sotto. Sappiamo che ci sono state delle cariche, degli arresti, se ci puoi un po' raccontare com'è andata. Allora, la situazione al momento attuale è questa: ci sono due compagni arrestati, due italiani arrestati e quattro immigrati arrestati, più 12 immigrati che sono stati espulsi, di cui quattro sono stati portati al CIE di Via Corelli a Milano e tre al CIE di Via Brunelleschi a Torino. La compagna di Radio Onda d'Urto che era stata portata in ospedale ha avuto una prognosi di 20 giorni, ha una spalla lussata, però insomma sostanzialmente riesce a stare bene. Stamattina era in radio che trasmetteva e il presidio è andato avanti per tutta la giornata. Stanotte verso poco dopo mezzanotte che sono ripassato dal presidio c'era ancora qualche decina di persone. Stamattina, adesso proprio in questo momento, penso che stia per cominciare il processo a due arrestati, un compagno italiano e un immigrato. Ci sono i commenti delle forze politiche dei giornali stamattina, che ovviamente esprimono pareri che per la prima volta si stanno un po' divaricando, nel senso che al silenzio da parte del centro-sinistra nelle giornate precedenti, o che tutt'al più stigmatizzava il fatto che il 38 c'era stata una manifestazione non autorizzata caricata dalla polizia e che poi aveva prodotto l'insediamento, diciamo, sulla gru dei sei lavoratori immigrati. C'è una prima presa, diciamo, prime prese di posizione del PD che si rendono conto che la situazione sta diventando sempre più complicata, sempre più complessa, perché ieri sera c'è stato un incontro dal prefetto tra ovviamente tutte le forze tranne quelle che rappresentano effettivamente gli immigrati, e c'è stata la totale chiusura direttamente gestita, diciamo, dal Ministero degli Interni, da Maroni, con la prefetta che fa praticamente la portavoce di Maroni, senza tentare neanche, insomma, di operare una mediazione a livello locale. Per cui la posizione della prefettura è chiusura totale: se non scendono non c'è nessuna possibilità di rivedere qualsiasi cosa, che tra l'altro poi il sindaco e il vice sindaco sostengono che non c'è nulla da rivedere, perché questi non sono colf e badanti, mentre sappiamo benissimo che la moratoria è stata chiamata così per colf e badanti, ma è stata la possibilità, almeno teorica, offerta a tanti di poter cercare di regolarizzarsi. Quindi è una situazione abbastanza complicata, ecco. Quello che è la cosa positiva sicuramente è il fatto che ieri il presidio si è ricostituito dopo le cariche, cioè praticamente la polizia ha guadagnato 30-40 metri, però il presidio da alcune decine di persone è diventato praticamente di centinaia di persone per molte ore della giornata. Tenete presente che a Brescia, che ne so, alle 7 di sera spariscono tutti che vanno a mangiare, e vedere ancora 300 persone alle 10 di sera che stanno al presidio, e ce n'erano 500-600-700 quando verso le 6, diciamo, quando è l'ora in cui si finisce di lavorare e quindi si permette a gente di venire in piazza, certamente è un fatto non usuale. Quindi se da una parte c'è un incarognimento di una base leghista, diciamo così, che ragiona ormai soltanto con la pancia, quindi non ragiona, c'è dall'altra parte un tessuto sociale che riesce da qualsiasi logica di partito, anche dello stesso sindacato, nonostante che la CGIL a Brescia sia comunque una potenza, e per cui questa risposta popolare fino a questo momento è l'unico scudo, no, che abbiamo per poter tentare di portare avanti, di rompere l'assedio e cercare quindi di riuscire ad arrivare a un tavolo di trattativa. Certamente se si moltiplicassero le iniziative a livello nazionale di solidarietà con le lotte dei migranti qui a Brescia, sarebbe insomma sicuramente un dato positivo, perché questi stanno facendo la faccia dura, la faccia feroce. La stessa Digos locale è stata in gran parte esautorata dalla gestione della piazza, però appunto nonostante questa faccia feroce il governo no, si trova pure in una situazione talmente debole, talmente appesa ad un filo, che sarebbe chiaramente demenziale insistere in un atteggiamento del muro contro muro. Comunque noi continuiamo le mobilitazioni, appunto vedremo come andranno questi processi, a partire da quelli di oggi, e i compagni immigrati che sono sulla gru, che avevano annunciato di rifiutare tutto, mangiare, bere, coperte eccetera, alla fine dopo una lunga e paziente opera di persuasione in cui sono intervenuti anche i rappresentanti delle comunità, si sono convinti appunto ad assumere cibo, acqua, ad avere nuove coperte, perché tra l'altro qui ha ricominciato a piovere, a fare brutto tempo e la situazione è estremamente delicata, insomma, ecco. Sì, infatti, la mobilitazione continua. Infatti, Pino, era proprio quello che volevamo chiederti, come stavano i lavoratori migranti sulla gru, perché è chiara l'intenzione del Ministero degli Interni di adoperarsi solo lui in questa questione. Insomma, oggi siamo al decimo giorno, hanno già fatto 10 notti lassù, va bene che sono giovani, questa è l'unica cosa, no, che li aiuta molto, oltre diciamo la loro grandissima determinazione, la loro formidabile tempra di lottatori, per cui ci dobbiamo affidare a questo, ci dobbiamo affidare il fatto per esempio che giù ci sia sempre persone, per loro è importante, li aiuta, li sostiene. Però è chiaro che la situazione potrebbe anche precipitare da un momento all'altro, perché insomma, voi immaginate che cosa significa stare là sopra, tra l'altro poi appunto con la pioggia, vento, terribile, tutte queste cose qua, potrebbe anche succedere qualche cosa di molto brutto, e ora è chiaro che si spera che questo non accada, si spera che appunto la forza che loro hanno e che comunque la solidarietà espressa da tanti cittadini, non solo dagli altri immigrati ma anche da tanti cittadini bresciani, in qualche modo possa supplire diciamo a delle carenze organiche, insomma ci sono dei limiti umani oltre i quali è difficile riuscire ad andare, ecco, per cui in effetti qui se si fossero delle forme di pressioni in qualsiasi modo possibile, queste pressioni sul Ministero degli Interni, è quella che bisogna premere, dico a livello nazionale. Qui sembra che le trattative siano complete, cioè non sono mai partite, per cui se siano ancora chiuse, anche se si può sperare che in qualche modo questa forma di lotta così radicale buchi diciamo la cappa di silenzio, no? Che pure non so, anche importanti quotidiani, mettiamo come Repubblica, avevano tenuto fino a ieri. Oggi mi pare che ne parli, anche se in maniera penso abbastanza limitata, cioè per dire insomma hanno pure sbagliato, parlano della di via San Firmino mentre è via San Faustino, magari certamente a uno che non abita a Brescia questo nome non dice niente, però è evidente che non vogliono dare indicazioni, cioè, precise, insomma mandano qualcuno così, prendono notizie da Milano e quindi manco stanno sul territorio a verificare, non so, per dire, giornali come Il Fatto Quotidiano, come l'Unità, come vabbè, i soliti Manifesto, Liberazione e i giornali locali stanno lì e quindi comunque notizie le danno, mentre i giornali di grande tiratura, il Corriere della Sera, ma almeno il Corriere della Sera qualche articolo lo fa, è la Repubblica e poi il giornale del centro-sinistra. Questo fa pensare che nonostante adesso si stiano almeno a parole muovendo, non vogliano dare la giusta importanza al caso, proprio per evitare che che si dia troppa importanza a una cosa che probabilmente anche se andassero loro al governo non saprebbero come gestire. Sì, probabilmente la gestirebbero alla stessa maniera. Per quello che riguarda qui a Roma, oggi ci sarà un'iniziativa proprio alle ore 3 rispetto a questa faccenda dei migranti, ai quali noi ci sentiamo profondamente solidali, e questo per rispondere al tuo quesito di prima. Invece volevo chiederti una cosa, Pino, rispetto al processo di stamattina alle 10 che saranno già facendo, perché sono le 10:15. Sì, penso stanno già facendo. Io purtroppo non posso essere presente, bisognerebbe sapere qualcosa. Beh, l'avvocato Vicini, però vabbè, in questo momento credo che probabilmente sì, è in aula, quindi è irrecuperabile. Ma comunque il contatto con Radio Onda Adulta è, possiamo dire, quasi minuto per minuto. Certo, certo, certamente. Ci viene aggiornati in tempo reale, insomma. Certamente, Pino. E intanto ti ringraziamo, se ci sono ancora degli aggiornamenti possiamo richiamare durante la giornata, se sì, si riesce. Va bene. E un forte abbraccio. Anche a tutti voi, grazie. Ciao, grazie. Ciao.